nell'ombra di un sole abbagliante, affascinati da vecchie utopie. Abbiamo spesso pensato di urlare, perdere tutto e poi correre via, ma presi da sogni un po' troppo distanti, abbiamo imparato a lottare così, con parole gridate da tanti, sparse lontano da un'aria di gente. Ci hanno chiesto di stare in silenzio, più per controllo che per paura. Ci hanno detto aspettate un momento, su dei divani colore censura, ad accoglierci troppi gioielli e poche parole tenute per noi. Esortati a non fare i ribelli, esortati a non fare gli eroi. Lapidati dei senza peccato, usati per sfogo da cinici dei. Siamo quelli che hanno disturbato il grande leone il giorno 26. Siamo stati applauditi da tutti e tutti ci hanno voluto occultare, come attori sfiniti e distrutti, come gocce perdute nel mare. Forse nati nel posto sbagliato, dove i discorsi diventano palle. Siamo quelli che hanno protestato contro la linea che taglia la valle. Quelli che un 20 di luglio bastardo furono coperti da un torbido gelo, uno sparo silente e codardo contro un pugno lanciato nel cielo. Abitati da un odio profondo per i mediatici attacchi velati, che addormentano animali del mondo su materassi spinosi e sformati. Bianchi sorrisi di plastica dura sono in agguato su tutte le reti, come corvi la notte più scura, messi a guardia di mille segreti. Guardi in avanti, passo incalzante per poter spingerci più in là e più in là. Qua non si può fermare il tempo, noi siamo quelli che nella notte restano svegli a respirare e con gli occhi fissi al cielo a camminare, con il mare sulla destra, con il mare sulla destra. Con il mare sulla destra, con il mare sulla destra. Nati lontano da terre spezzate, crepe che tagliano la vita a metà. Siamo lontani da vite ammazzate perché chiedevano più libertà. Apparteniamo alla parte di mondo violentatrice dell'altro emisfero, che lo schiaccia ben bene sul fondo, ma non crede di farlo davvero. Non dobbiamo restare in silenzio e fingere che possa andar bene così, perché crediamo in un mondo diverso che può partire soltanto da qui. Perciò continuiamo a cantare la rabbia con la speranza di un mondo migliore. Forse è solo un granello di sabbia, però basta per spingere il cuore. Guardi in avanti, passo incalzante per poter spingerci più in là, più in là e più in là. Qua non si può fermare il tempo, noi siamo quelli che nella notte restano svegli a respirare e con gli occhi fissi al cielo a camminare, con il mare sulla destra, con il mare sulla destra. Con il mare sulla destra, con il mare sulla destra.